Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ricordiamo spesso che nessuna Smart City sarà mai possibile senza che siano smart anche i suoi cittadini. Tuttavia, il cambiamento più profondo dovrà avvenire nelle amministrazioni pubbliche, che al contrario sono proprio il regno della conservazione. Stasera allora andiamo a Brescia, città che è impegnata solo da un anno e mezzo, almeno in modo esplicito, ufficiale, nella partita delle città intelligenti, e che tuttavia ha deciso di partire proprio dal lavoro sul personale della amministrazione, quello interno, come ci spiega la coordinatrice del progetto Brescia Smart City, Nadia Busato, al microfono di Federico Pedrocchi. Sentiamo. A Brescia con il suo team avete fatto una prima attività per andare a individuare all'interno degli apparati di amministrazione delle persone che sono tendenzialmente già sintonizzate sul fatto che insomma Smart City è una cosa interessante, va fatta. C'è da dire che abbiamo recentemente avuto un cambio amministrativo in cui è stata sentita la necessità di creare un'area che è l'area innovazione, perché è stata data una delega a un assessore, per la prima volta arriva la delega Smart City finalmente, anche se noi lavoriamo naturalmente da un anno e mezzo. Quindi diciamo si concretizza in realtà un percorso che è stato fatto a livello proprio umano attraverso le aree e gli assessorati, perché io sono una persona che è arrivata dall'esterno, quindi una consulente, ma la pubblica amministrazione non può pensare di dotarsi di persone esterne per fare un percorso di innovazione che è prima di tutto un percorso di innovazione procedurale interno alla macchina amministrativa. Quindi in qualche modo l'area innovazione è intervenuta proprio così, cioè cercando il capitale umano all'interno della macchina amministrativa, avvicinandola attraverso la curiosità, per cui parlando, proprio condividendo le idee, cominciando a fare dei progetti in cui al tavolo venivano invitate più persone, e tra queste quelle interessate venivano chiamate anche su altri progetti, anche solo per sentire che cosa stava succedendo. Ecco, un'altra cosa che state facendo, che avete in programma, è fare proprio formazione a questo gruppo di persone, probabilmente anche ad altre. Cosa vuol dire fare formazione su Smart City all'interno di un comune? In questo senso significa far capire che il nuovo non è un pericolo, perché il problema della macchina amministrativa è che vive di dinamiche ipergarantite, spesso ipertutelate, per quanto riguarda proprio la forma in cui si concretizza il lavoro quotidiano. E l'approccio innovativo, l'idea di portare dentro delle tecnologie per cui magari qualcuno non si sente pronto o si sente impaurito, poi rischia di incancrenire un po' la distanza che c'è tra chi arriva da fuori e chi invece è già interno alla macchina da molto tempo, tra chi comunque è più preparato e più giovane e chi per esempio invece improvvisamente si sente non tanto messo da parte, ma estremamente demotivato al cambiamento, proprio perché ha interiorizzato una serie di procedure che vengono trovate assurde da chi arriva da fuori, cioè l'apparato burocratico vive di leggi e di regole proprie che al cittadino non arrivano, e chi arriva da fuori spesso ci entra con la delicatezza di un bisonte. Invece l'idea è proprio quella di valorizzare l'esperienza innanzitutto, perché comunque significa muoversi con delicatezza all'interno di equilibri che comunque sono equilibri umani e politici tra il governo della città e le realtà che operano sul territorio. Penso anche ai sindacati, per esempio, penso anche alle istituzioni che raccolgono il mondo delle imprese come la Camera di Commercio, le associazioni degli industriali. A loro bisogna parlare nel loro linguaggio, e tutto questo è una ricchezza che nella Smart City non deve essere persa. Non è solo la cultura del dato, è proprio un focus sulle persone che devono imparare a non aver paura del cambiamento, e noi questa devo dire è una mancanza nazionale. E anche chi deve fare Smart City spesso soffre comunque i tempi della pubblica amministrazione, la sente come un peso, e chi arriva da fuori per esempio propone modelli, si propongono delle procedure magari molto veloci o che funzionano molto bene sulla carta, ma che poi non sono compatibili con dei cerimoniali che però esistono. La Smart City non è un cambio tecnologico, non è un cambio d'apparato e non è neanche un business model innovativo, è proprio un cambio di testa, perché è un processo. Da fuori si può avere l'idea però che queste procedure farraginose, bloccanti, siano obbligate come delle leggi, invece non è così. Assolutamente no, e in questo proprio sta la valorizzazione del capitale umano di chi da tempo è nella macchina, perché chi è dentro conosce anche le scorciatoie. E nel momento in cui le aree collaborano, questo è molto vero. Faccio un esempio molto pratico: è uscito un bando adesso del Ministero dei Trasporti rivolto alle regioni, quindi le città devono presentare alla regione un progetto e questa poi la presenterà al Ministero. Sono gradi burocratici che richiedono dei tempi anche molto lunghi. Eppure i comuni su questo bando qua si stanno attivando in maniera estremamente rapida. È incredibilmente rapida perché sono molto motivati. Quando gli fai capire che esiste una reale opportunità e l'unica rapidità possibile è quella in cui le aree si siedono allo stesso tavolo. In un solo pomeriggio noi siamo riusciti a mettere insieme tutto il progetto. Poi il tempo materiale per farlo era 2 giorni di lavoro uomo per area, che sono stati trovati subito, ma spontaneamente si sono offerte le persone e l'abbiamo fatto semplicemente unendo 3 aree al tavolo. Non ci sono freni legislativi ma freni mentali, che però da anni interpretiamo invece come legislativi, come regolamenti. Beh, laddove c'è opacità c'è anche una gestione del potere molto reale, perché se io non condivido un'informazione, questa informazione diventa preziosa. E all'interno della macchina comunale è esattamente quello che è successo. Parlo ovviamente della macchina comunale, ma possiamo pensarla a tutti i livelli della politica italiana. È esattamente questa cosa qua, laddove le decisioni vengono prese in un'altra stanza, in quella stanza lì c'è chi gestisce il potere. Se io abbatto queste stanze qua e instauro in realtà la voglia di confrontarsi, improvvisamente è tutto veramente più facile. Anche per questa sera abbiamo concluso, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. A voi tutti buona serata.